Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Un'altra tragedia in un hotel di Milano e anche stavolta la vittima è uno studente. Aveva 17 anni, avrebbe dovuto visitare l'Expo con i compagni del liceo Fermi di Cecina, in provincia di Livorno. Erano arrivati ieri sera in pullman. Oggi, dopo la visita all'esposizione di Rho, era già previsto il rientro a casa. È stato un vigilante questa mattina, intorno alle 5, a notare il corpo del ragazzo in un cortile vicino all'hotel, alla periferia nord-est di Milano. Immediati ma inutili soccorsi. Quando sono arrivate le ambulanze, per lui non c'era più nulla da fare. Lo studente sarebbe precipitato dal sesto piano, dove condivideva la camera con altri tre amici. Oggi i giornali sono unanimi nel dire tragedia fotocopia. Sì, perché qualche mese fa Domenico Mauro Antonio, 19 anni, padovano, anche lui in una gita all'Expo, è caduto dal quinto piano di un hotel e è morto. Allora sembra ci fosse più un giallo attorno a quella vicenda, ma sono assimilabili. Sono i ragazzi che vanno in gita scolastica, si ubriacano, si fanno le canne, fanno casino, come facciamo noi dagli anni 50 in poi, quando si fanno le gite scolastiche, anni 60. Esattamente le mie gite scolastiche equivalevano a queste gite scolastiche. È il momento di uscita dalla regola, il momento della massima gazzara. Omnia licet, quando si va in vista in gita scolastica. Venivano i professori più bonaccioni, quelli che in fondo avevano più pelo sullo stomaco, ai miei tempi avevano anche una diaria, oggi nemmeno li pagano, quindi vanno i professori proprio quelli molto motivati, che hanno una grande vocazione nel seguire gli studenti anche questa vicenda, o quelli più marpioni che vanno lì perché poi magari hanno storie con le professoresse, quindi si organizzano, sai, quella di quel liceo, con quello di quell'altro liceo, almeno ci facciamo una gitarella, non ce ne stiamo per conto nostro, i ragazzi facciano quello che vogliono, perché tanto in gita si fa quello che si vuole. Gli episodi, devo dire che sono tanti, faccio qualche esempio. Nel 2014 Gabriele, che muore 15 anni, cade da una balaustra di una nave durante una gita a Barcellona. Lo stesso anno un 16enne Losanna è stato accoltellato durante un viaggio a Roma. Nel 2014 un 17enne Isabella cade da una scogliera mentre si faceva un selfie a Taranto con la classe. Nel 2010 Maria Cristina si è uccisa a 19 anni in un albergo mentre era in gita a Londra. Ma ce ne sono tanti. Voi direte, muore più gente col motorino che in gita scolastica, che volete che sia? No, in gita scolastica è un momento particolare, dovrebbe essere un momento didattico, un momento in cui i ragazzi sono sotto la responsabilità della scuola e le assicurazioni pagano la responsabilità civile. Poi il professore deve anche rispondere penalmente di questa vicenda, che comunque ha in sé una legge non scritta, per cui in gita si va a far casino. Ma non c'è un'alternativa, perché forse vale la pena dire: non le facciamo mai più le gite, dimentichiamocene, ma poi i genitori protestano, oppure facciamo qualcos'altro che non sia la gita scolastica come era concepita dagli anni felici del boom economico, cioè un momento in cui la scuola chiude un occhio e i ragazzi prendono quell'occasione per una loro sorta di iniziazione alla gazzarra, che è qualcosa di bello, divertente, non condannabile, ma poi non deve essere fatto comunque in ambito scolastico o sotto la responsabilità della scuola. A tra un istante, 800 24 00 24. Melog, Cronache Meridiane. Più che altro è un'esperienza di riflesso di mia figlia, nel senso, io ho una bambina di 9 anni che fa la quarta elementare, ovviamente. Quest'anno i genitori più che gli insegnanti erano tutti euforici perché i bambini andavano 3 giorni a Pestum. A parte il fatto che spesso mi sembra più che siano i genitori che vogliono togliersi di torno i bambini. Nell'84 io sono partito dall'aeroporto Kennedy di New York. A bordo c'erano dei ragazzi, una scolaresca, e dopo un mezz'ora, tre quarti d'ora dalla partenza dall'aeroporto di New York, questi ragazzi che erano già saliti a bordo abbinazzati, quindi già ubriachi prima di partire, più di uno è stato male, ha vomitato. E quindi una ragazza che era davanti a me. Queste erano delle testimonianze che abbiamo raccolto qualche mese fa, quando ci fu l'episodio precedente. Facemmo la stessa trasmissione, chiamammo più o meno le stesse persone a dire: ma vale ancora la pena di fare gite scolastiche in questi termini? Questa mattina un sito, scuola.net, ha fatto una rapidissima indagine su un campione di 6.000 studenti e viene fuori che i docenti sarebbero sempre più d'accordo ad abolire le gite scolastiche, non vedono più il senso di seguirle perché sembra quasi una sorta di volontariato pericolosissimo andare a seguire una gita scolastica. Ai ragazzi piace, certo che piace. È un momento di iniziazione, l'ho detto. Per molti è la prima volta che stanno fuori casa, che possono far casino. I più tranquilli si scatenano, i meno tranquilli hanno il loro terreno di pascolo privilegiato. I professori cosa fanno? Stanno svegli la notte, li sorvegliano. Ma in questo caso come si fanno a sorvegliare dei ragazzi chiusi in camera la notte quando dormono? Non se ne erano accorti nemmeno i compagni di classe che questo era caduto dalla finestra. Tanto erano fatti e bevuti per quella notte. Io non sono un moralista. I ragazzi si facciano, bevano, facciano quello che vogliono, ma perché dobbiamo noi puntualmente trovarci a dire queste cose che accadono durante una gita scolastica, che è un momento comunque che fa parte della didattica di un corso scolastico. Mario Rusconi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Ci siamo sentiti qualche mese fa parlare delle stesse cose. Cosa è cambiato in questi mesi? Qual è questa mattina il suo stato d'animo, visto che la chiameranno tutti per nuovamente rimettere in piedi la stessa trasmissione per raccontare le stesse cose? Possibile non ci sia una via di uscita da o continua tutto così o non si faccia per niente? Ma guardi, lei ha già individuato, diciamo, le due grosse responsabilità: da una parte quella della famiglia, che spesso ci dà dei ragazzi che diciamo così sono molto euforici quando escono dalla cerchia familiare. Ma per lei non è stato così, professore, si ricorda? Non so quanti anni abbia lei. Ne ho abbastanza, ma io ne ho 61, per me era esattamente la stessa cosa. Ho più o meno l'età sua, e all'epoca nostra chiaramente non c'era la diffusione della marijuana. Noi si fumava e si beveva lo stock 84, sì, ecco. Però il discorso è questo, appunto: da una parte appunto forme di perdonismo della famiglia molto accentuate negli ultimi anni, molto più che 20 anni fa, 30 anni fa, dall'altra parte la scuola che evidentemente non è in grado di padroneggiare le visite di istruzione, come si dice pomposamente, cioè le gite, come fa un po' ridere dire. Chiamarle ancora così, sì, però appunto. Allora il problema qual è? I problemi sono vari. Anzitutto andrebbe ripristinata la diaria degli insegnanti, perché pensare che un insegnante per 4-5 giorni possa lavorare 15-16 ore al giorno, non la notte, naturalmente tutto a gratis, come si dice a Roma, è una delle tante follie quando poi si sentono gli sperperi generali. Ma chi lo fa, perché lo fa? È molto motivato o in fondo si prende una vacanza, respira anche lui? Le dico la mia esperienza lunghissima proprio di Presi. Ci sono alcuni, purtroppo una minoranza, di insegnanti che organizzano benissimo i viaggi di istruzione, chiamiamoli così. La meta è scelta non in rapporto alle Ramblas di Barcellona o a cose di questo tipo, ma in rapporto al programma che viene fatto. I ragazzi vengono inquadrati e naturalmente, essendo ragazzi, gli si dice anche quali saranno le conseguenze se per caso derogano da quelle che sono le norme del vivere civile. E questi sono una piccola minoranza, ma ci sono insegnanti di questo tipo. Poi ci sono gli insegnanti supplenti, adesso diventano tutti di ruolo, ci sono gli insegnanti più giovani, l'ha detto già prima lei, ci sono gli insegnanti che vogliono fare loro la gita, che per conto loro naturalmente, perché interessa loro di vedere gratuitamente un posto, e allora queste persone spesso sono, come dire, succubi un po' degli studenti, e quindi diciamo avvengono cose di tutti i tipi. Però vorrei sottolineare che sia quello che è successo l'altra volta a Milano, sia questo, è avvenuto di notte, quando l'insegnante non ha nessuna responsabilità. Ecco, che può fare la notte l'insegnante? Più di nulla, quello... nulla. Tra l'altro anche noi ci abbiamo, appunto, ormai c'è un repertorio, diciamo così, giuridico molto ampio. L'insegnante, nel momento in cui ha detto ragazzi a mezzanotte voi andate a dormire, chiudiamo le stanze eccetera, e succede un evento tragico, già successo, l'insegnante non viene neppure indagato, viene interrogato ma non viene indagato. Diverso è se l'insegnante, io come preside ho sempre detto agli insegnanti, attenzione, non pensate che anche un diciottenne sia solo perché maggiorenne può andare per conto suo, perché voi avete abbandonato un maggiorenne che vi era stato affidato. Deve restare in albergo, com'è la consegna? No, in albergo, e il dire delle volte succede anche questo: siamo a Parigi, allora ragazzi io con il gruppetto rimango al Louvre, voi andate pure da soli alle gallerie Lafayette, se succede qualche cosa anche al maggiorenne che è andato per conto suo alle gallerie Lafayette, l'insegnante paga dal punto di vista disciplinare, dal punto di vista civile, dal punto di vista penale, perché ha abbandonato una persona che gli è stata data. Ma la notte l'insegnante non ha responsabilità, il discorso è precedente. Come accade, mi scusi, se la notte è libera uscita, finito il momento didattico, si va a cena. Poi l'insegnante cosa fa? Dice ognuno per sé, Dio per tutti. Devono andare a letto, no, non può. Ma magari l'insegnante ci va alle 9, i ragazzi non gli va ad andarci alle 9. No, questo infatti si tratta di concordare. Se l'insegnante dicesse in maniera incosciente e soprattutto autolesionistica, ragazzi, dopo le 10, libera uscita, andate dove vi pare, l'insegnante ha commesso un reato, attenzione, e soprattutto pagherà in termini anche civilistici, che forse è ancora peggio. Quindi l'insegnante le dirà a un certo punto, ragazzi, da questo momento finisce la gita a letto, in caserma. Se i ragazzi invece di andare a letto, come è successo, si ubriacano, io le posso citare anche degli episodi. In un episodio, non per fortuna, del mio liceo, i ragazzi sulla nave andando in Grecia hanno svaligiato la cassa del bar, hanno non solo dei soldi ma anche del bere e di tutti annessi e connessi, e non le dico, i genitori che io conoscevo un genitore per questioni familiari, non era il mio liceo, senti scusa, che cosa possiamo fare per fare in modo che il nostro figlio non venga? Io sono caduto veramente dalle nuvole, dico, vostro figlio ha commesso un grave reato, secondo me, dico, come cittadino dovrebbe avere una sanzione, insomma, magari non lo mandiamo in galera. Allora, solo un secondo, per essere Cusconi, perché ho già tantissime telefonate, vedo che l'argomento è interessante, sento due telefonate, poi ritorno con lei. Antonio, buongiorno. Sì, salve. Sì. Come vede Nicoletta, io per lei ho stima. Vabbè, allora, io va dal punto. Io ho una figlia di 17 anni. Non riescono ad andare in gita, ma io le do torto a mia figlia. Come non riesce ad andare in gita? Non riescono a trovare un prof che le possa portare in gita. Grazie. Perché loro non si prendono la responsabilità. Ma ci hanno anche ragione, scusi. Ci hanno anche ragione, infatti io le do torto a mia figlia, perché mia figlia deve andare all'Expo, è già stata con noi all'Expo. Dici, no, ma io tanto ci vado per non andare 2 giorni a scuola. Cioè, non è che loro fanno una gita culturale, una gita di istruzione. Loro, il loro obiettivo è non andare a scuola per 2 giorni. Ma sì, anche altre cose. Adesso non voglio infierire nel suo amor proprio di padre, ma andrà perché gli andrà di far casino, di stare con gli amici, con le amiche, fare cose che a casa non le permettono di fare, andare nei locali a bere, fare quelle cose che si fa in albergo quando stanno tanti compagni di classe e ognuno può fare quello che vuole. Andrea. Sì, pronto? Sì. Buongiorno. Sì. Io telefonavo collegandomi alla telefonata che ho ascoltato di quel preside che commentava l'esperienza appunto, sì, che ha avuto in passato. Anch'io sono stato a mia volta non preside ma insegnante, 7 anni. E devo dire una cosa, che le gite, i viaggi di istruzione meglio riusciti sono stati dal punto di vista anche dei ragazzi, quelli convenientemente preparati in classe, programmi concordati, visite definite per quello che doveva essere poi il risultato che doveva portare a casa effettivamente con il viaggio di istruzione. Perché mi scusi, professore, mi viene a pensare, ma perché invece come accade? Il professore, diciamo, più attivo si mette d'accordo con l'agenzia che organizza. È un viaggio organizzato come andare in vacanza, non cambia molto. Però dal punto di vista didattico invece, se la cosa è preparata molto bene in classe con i ragazzi e quant'altro, i risultati poi vengono, anche dal punto di vista poi di responsabilità dei ragazzi e di modo di comportamento. Oh, questo è un punto interessante. Se la gita fosse veramente un progetto didattico coordinato tra ragazzi e scuola, articolato, coordinato e soprattutto condotto dagli stessi insegnanti che hanno effettivamente la valenza più importante relativamente ai contenuti di quella visita didattica. Quindi l'insegnante non è un agente di viaggio che organizza una gita per 20 scavezzacolle. L'insegnante deve mettere in campo il suo ruolo e la sua qualifica per dire benissimo, facciamo qualcosa che abbia un senso, ma non facciamo nella città in cui abbiamo la scuola, facciamo fuori. Luigi, buongiorno. Sì, sono presente. Ma anche io ho un'esperienza di una gita a Roma, di una scuola di scatolo scientifico nel lontano 87. Questa gita si è ridotta, come al solito, a un viaggio a Roma. Io mi sono una volta azzardato sul pullman a prendere il microfono e spiegare 2 cose di cos'era il Foro Romano. Ma lei è un insegnante? Sì, ero. Sono in pensione. E allora, ma noi in modo pedante a spiegare ogni pietra, 2 cose generali, cos'è lì l'Anfiteatro Flavio, 2 cose del Colosseo, di storia romana, ma cose veloci, Questi abbiamo preso il microfono, se ne sono fregati altamente. E l'unico pensiero di questi qua, poi non ne parliamo, la notte, la prima notte, alle 2 di notte mi chiamano quelli dell'albergo, dice ma lì stanno accendono fuochi nel corridoio. Si figuri lei. E allora poi il pensiero principale era la sera dove andare in discoteca. Ma allora mi chiedo io, al di là, a parte che c'è l'equivoco della cultura, che la cultura non è andare alle gite scolastiche, andare a vedere Pompei, io scusi mi allargo, ma il nostro caro Renzi ci ha detto che noi siamo una superpotenza culturale perché abbiamo Pompei che è frutto di una disgrazia dove sono morte migliaia di persone, quindi se non eruttava il Vesuvio noi non avevamo manco Pompei. Sì, ma guardi, questo che il mondo intero è aspetti, professore, il mondo intero viene a visitare il Colosseo prima ancora pensa alla leggenda che ci facciano mangiare i cristiani coi leoni, capito? Sui libri e facendo funzionare i cervelli non si fa. Allora, se deve andare uno in discoteca, io sono Imperia, basta che va a Varazze, c'è una discoteca e va due giorni lì, ragazzi si sfogano nelle discoteche e la gita scolastica è fatta, non c'è bisogno di andare fino a Roma, a Firenze, uno di sì, Polonia, però no? Professore, lei sa meglio di me, siamo stati tutti ragazzi, l'essere lontani fisicamente dal luogo di controllo più o meno reale ma ancora imponente delle famiglie, delle scuole, così è un momento di scatenamento, come se noi ci dicessero in questo momento a me, a Intonti, Rocchetti, sono i colleghi con cui stiamo facendo la trasmissione, bene, via, viene il pulmino, vi porta a 200 km da Roma e facciamo i salti fino al soffitto, comunque sia ci divertiamo più che stare qui, questo è logico, figuriamoci dei ragazzi che stanno lì con gli ormoni in subbuglio, è il momento in cui si quadrano tutti i sogni, tutte le aspettative oniriche di ogni tipo in quell'insieme scolastico, e poi il professore tutto sommato si organizza la gita, probabilmente anche lui in questo trova una maniera per usare in modo anche utile il suo tempo. Noi ci fermiamo un istante soltanto, riprendiamo tra un po'. 800 24 00 24. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te, no, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. Melog. Cronache meridiane. +800 24 00 24, mi scrive un ascoltatore, dice ma perché non fate una sorta di accordo per cui gli studenti quando vanno in gita li mettono soltanto ai piani bassi degli hotel, bastasse questo, potrebbe essere un'idea, ma il problema è molto più radicato e insolubile in quanto ormai è una tradizione che sembra assolutamente non più scardinabile. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io chiamo per raccontare la mia esperienza. 15 anni fa eravamo in quinta superiore e nessun professore voleva portarci perché eravamo una classe abbastanza indisciplinata. Allora noi abbiamo deciso, noi in gita vogliamo andarci, la gita del quinto anno, e a piccoli gruppi di 6-7 persone, ognuno voleva una meta diversa, siamo partiti senza professore, facendo un'assenza di 5-6 giorni. Sì, ma la scuola non c'entrava niente, dovete portare la giustificazione. Sì, era anomalo che pezzi di classe mancavano, con la decisione che non stavamo male, di solito si bisogna portare anche il certificato medico. Eravamo riusciti a superare questo ostacolo. E... Ah, avete fatto un accordo clandestino con la scuola? Stiamo via per 5 giorni? Il professore fa, io non vi porto, vi togliete dalle scatole per 5 giorni e il professore era più sereno, diciamo, sì. Ma questo dove avveniva questo? Questo non era un liceo artistico. Ma dove, in che città? a Venezia. Allora, Mario Rusconi, vicepresidente Associazione Nazionale Presidi, questi accordi accadono, rientrano nella norma o nelle maglie, diciamo, di aggiustamenti nelle norme? Beh, accadono, ne ho esperienza anch'io. I ragazzi tendono, quando appunto hanno un muro di gomma degli insegnanti che sono impauriti un po' da tutto quello che succede, che i ragazzi si mettano d'accordo per conto loro a fare cose di questo tipo. Infatti io delle volte provocatoriamente, quando venivano a chiedermi l'autorizzazione a fare una cosa non autorizzabile, perché questo è il bello dei ragazzi, anche io dicevo loro: benissimo ragazzi, organizzata durante le vacanze di Pasqua, Dio ce ne scampi e liberi, perché le vacanze di Pasqua non potevano essere adoperate in quel modo. Volevo riprendere il discorso che faceva il professore di nome Andrea, sono perfettamente d'accordo con lui. La visita di istruzione va limitata solamente a quelle classi, a quei professori che l'abbiano ben organizzata dal punto di vista didattico, altrimenti diventa, come si dice a Roma, una gita fuori porta in cui però tutto è ammesso. Faccio presente che appunto questi ragazzi... Ma chi deve stabilirlo quello? Il dirigente scolastico? Io direi che non è che è solo il dirigente scolastico, è il collegio dei docenti e sono i consigli di classe. Infatti, però sono tutti d'accordo, come si fa a dire no, quel professore va a fare una gita alle Ramblas di Barcellona perché vogliono andare a far feste ai ragazzi. E chi lo dice? Chi mai direbbe questo? Cioè, a un collega l'autorizzazione ad andare per conto. No, a dire che non ha un valore didattico quella gita. No, che è il consiglio di classe. Me le dico, io una volta avevo proposto niente meno, una sorta di patente a punti per le classi, cioè vanno in gita scolastica, in visita di istruzione, quelle classi che nel corso dell'anno, perché già si vedono, lo diceva anche prima qualche suo interlocutore, eravamo una classe molto agitata e nessuno ci voleva portare fuori, cioè queste classi vengono escluse. Normalmente io so che in collegio docenti e nei consigli di classe, perché le gite non le decide né il preside né il consiglio d'istituto, le decide il singolo consiglio di classe. Il consiglio di classe dice: benissimo, questa classe non può andare perché i ragazzi sono troppo irregolari, oppure altri consigli di classe che hanno detto: vanno 20 ragazzi, 5 no, perché durante l'anno hanno disturbati, immaginiamo che cosa succederebbe. Sì, se no penalizza, poveretti, le vittime dei bulli, che sono gli unici che magari avrebbero un senso che ci vadano, non ci possono andare perché la classe di Lazzaroni è stata penalizzata. Bisognerebbe fare delle scelte individuali, secondo me. Lo so, però le scelte individuali vuol dire che in una classe particolarmente agitata magari poi possono andare in gita solamente 3 su 25. E poi si ritrova gli avvocati dei genitori sotto casa. Ma io le dico solamente che laddove ci sono stati scuole che hanno detto: su questi 25 ragazzi, 3 non possono andare perché hanno voti negativi in condotta, così via, eccetera, c'è stato immediatamente l'avvocato che ha scritto alla scuola. Io l'avevo detto per dire una battuta, penso un po'. Ma altro che battute, cioè gli insegnanti sono veramente vittime di questa forma proprio di molestie avvocatizie giuridiche da parte dei professori, che sono veramente uno dei drammi. Questo anche dei genitori, vuol dire. Dei genitori che sono veramente, da questo punto di vista, sono diventati l'avvocato del diavolo. Il problema è che si è rotto il patto fra la scuola e la famiglia ormai da molti anni. Sì, poi si allevano in casa quelli che saranno i loro prossimi aguzzini, peggio per loro alla fine. Lo so. Sentiamo un attimo solo, scusi, preside Rusconi. Marco Zampieri, buongiorno. Buongiorno. Delegato buongiorno. Per il turismo scolastico di Fiavet Lazio, la Federazione Italiana dell'Associazione Imprese e Viaggi. Sì. Mi toglie una curiosità, chi vi contatta voi per la gita scolastica? Ma ci contatta chiaramente in prima battuta un consiglio di classe, poi... C'è un professore vi chiama? Cioè, ci chiama un professore che esprime dei desiderata, poi tutto quanto segue il contratto il contratto per gli appalti pubblici, per cui viene indetta una gara di appalto per fare il viaggio di istruzione. Si seguono dei criteri. Ah beh, quindi diciamo, è un meccanismo trasparente, non è che il professore si organizza con un agente. Ecco, no, questo è importante, perché mi scrivono degli ascoltatori maliziosi, cioè, ma sai, i professori poi steccano sui viaggi. Questo non è possibile. No, questo lo dico, delle tante accuse che possono essere fatte, non esiste. No, ecco. Assolutamente no. Forse 30 anni fa poteva essere più facile, oggi non può avvenire questo. Non può avvenire. Quindi è un meccanismo di massima trasparenza. Una volta che è stata decisa la gita, il meccanismo di organizzazione della gita di massima trasparenza, che c'è una gara. Assoluto. Ecco, voi avete dei problemi di ritorno, cioè poi diciamo gli operatori che avete interessato in questa operazione si lamentano di quello che hanno fatto i ragazzi? Guardi, è in percentuale rispetto a una casistica un po' generale, cioè nel senso che chiaramente ci sono delle situazioni che debordano dalla normalità, anche nel caso di questa purtroppo tragedia, chiaramente è una situazione eccezionale. No, ma dicevo cose più banali, non so, danni negli... Guardi, casino la notte, clienti che sono... Sì. Allora, metà. Guardi, c'è, però, ecco, è stata istituita la cauzione che viene richiesta dalle strutture alberghiere proprio a protezione di questi eventi. Quindi la scuola, se i ragazzi fanno casino, se i ragazzi fanno casino, poi paga la scuola la penale? No, pagano i ragazzi. Le famiglie dei ragazzi? Le famiglie dei ragazzi, sì. E questo, diciamo, noi quando diamo la quota per i nostri figli, già è compresa la penale che poi ci viene restituita se tutto va bene? Ecco, all'ingresso del gruppo viene richiesta una cauzione di 10 euro, 15 euro. Ma si rende conto 10 euro per, di fronte al piacere di spaccare una sedia? Chiaramente, è un discorso preventivo, semplicemente preventivo. Sì, diciamo, non è un deterrente quello. No. Le faccio una domanda ultima. Se oggi io avessi potere di decidere, basta, mai più gite scolastiche in Italia, in generale il suo giro di lavoro ne sarebbe penalizzato? Ma quasi azzerato. E quindi che giro di soldi se ne andrebbe in fumo, per far capire, di indotto? Ma, parliamo anche dell'Expo, quanti sono i milioni di studenti che sono andati in bici? Faccio due conti. Quindi diciamo che le gite scolastiche alimentano un bel indotto. Un indotto turistico ormai fondamentale. Quindi non è che stanno in piedi soltanto per inerzia, come ho detto io, anche perché girano dei bei soldini attorno alle gite scolastiche. Quante se ne fanno all'incirca in Italia? Ha qualche numero? Qualche numero preciso? No, linea di massima. Che le posso dire? Calcoli che mediamente su un istituto su 1000 studenti almeno 500 partecipano a dei viaggi di istruzione. Quindi diciamo che insieme al turismo religioso, al turismo nelle città d'arte, a quelli che vendono le pentole, comunque il turismo scolastico è una fetta importante del turismo italiano. Quindi se oggi ci fosse una legge punitiva che dicesse basta, non vogliamo più morti, non vogliamo più casino, non c'hanno niente a che fare con la scuola, chiudiamo le gite, ci sarebbe la gente con cartelli, verrebbe a protestare sotto il ministero, chiediamo da mangiare ai nostri figli. Chiarissimo. Andrea, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io la chiamo solo per raccontare la mia esperienza, perché ho 47 anni, da ragazzo vivevo in Inghilterra e noi per la gita scolastica venivamo preparati, interrogati, e chi non superava, diciamo, le interrogazioni non poteva partecipare alla gita. Addirittura noi, quando ero stato ad Edimburgo, un mio compagno di classe... Che anni erano? Le posso chiedere che anni erano? Ero negli anni 80, 85. Io avevo 14 anni, 15 anni. Quindi c'era un principio di selezione. Chi si comporta male durante l'anno non va in gita, perché comunque è un premio. Ma loro preparavano la gita, e chi non studiava verso, diciamo, il tema della gita, che veniva interrogato, non poteva partecipare alla gita. E accadeva che gente rimanesse a casa? Scusi? Accadeva che gente rimanesse a casa? Sì, nella mia classe almeno due o tre sono rimasti a casa. Tutti però gli purtroppo, anni, come ci ha spiegato oggi il rappresentante dei presidi... Ho capito che magari non è fattibile, però... No, in teoria dovrebbe essere fattibile, che i genitori poi fanno talmente tanto casino, mettono gli avvocati, che la scuola alza le braccia e dice ma sapete che nova c'è? Peggio per voi, tenetevi i vostri figli così come sono, sarà un problema vostro quando non avranno più l'età per stare sotto la nostra responsabilità. Ci fermiamo un istante, speriamo questa volta. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Abbiamo raggiunto un punto di comprensione del problema, perlomeno al di là dei rimedi possibili abbiamo capito alcune cose. Le gite scolastiche non possono essere interrotte o chiuse, nemmeno per decreto, perché una fetta importantissima dell'indotto che queste provocano ne sarebbe penalizzata. Verrebbero le persone della Fiavet o gli albergatori o chi per loro, chi comunque vive nell'indotto delle gite, dire ci manca una fetta importante del nostro lavoro, quindi non possono essere chiuse. La scuola ha grandissime difficoltà nel gestire le gite, perché i professori non sono motivati ad andare in gita, primo perché non prendono la diaria, secondo che si trovano a fare ormai con una sorta di dato per scontato che la gita è un obbligo, gli studenti devono farla per forza, Se si pongono dei limiti, delle barriere all'accesso alle gite, di merito, vengono solo gli studenti che sono motivati, quelli che hanno studiato il percorso della gita, quelli che comunque hanno un voto buono in condotta. Se cominciamo a fare le selezioni, i genitori mettono gli avvocati perché mio figlio, questa sorta di capolavoro, non può partecipare alla gita, e di fronte a questo problema la scuola che già ne ha tanti non se li può accollare. Vediamo di capire allora come si può magari uscire o pensare qualcosa, immaginare qualcosa per uscire da questo impasse. Vorrei confrontarmi per questo con un funzionario del MIUR, del Ministero. È un dirigente della Direzione Generale per lo Studente, Integrazione e Partecipazione, che è una direzione che forse all'esterno pochi conoscono, ma sono quelli che ad esempio si occupano dei problemi degli studenti vittime del bullismo, sono quelli che ingiustamente sono stati in questi ultimi mesi messi sotto torchio per la cosiddetta fandonia della teoria del gender, di cui abbiamo parlato tantissimo, sono quelli che si occupano comunque delle categorie di studenti che possono avere dei problemi dell'integrazione scolastica, compresi gli studenti con handicap. Giuseppe Piero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Giuseppe Piero, lei si è mai posto il problema di come potrebbe essere, visto che lei conosce gli studenti più che ogni altra persona, non ha rapporti tanto con gli insegnanti quanto con i problemi degli studenti, come potrebbe essere una soluzione, può essere fantasiosa, da proporre, da impugnare, da fare nostra se ci piace, per uscire da questa impasse che la gita scolastica è esattamente un guazzabuglio, salvo casi pochissimi, che non ha nulla a che fare con l'attività scolastica e nemmeno con il benessere degli studenti? Sì, sicuramente è un tema che ci vede particolarmente motivati dal punto di vista degli studenti. C'è da dire una cosa, noi continuiamo a chiamarla gita di istruzione ed effettivamente da tempo abbiamo provato a chiamarla in un altro modo, no? Visita di istruzione, no? È chiaro che il fatto che dopo tutto questo tempo ancora non si riesca a cambiare il nome, il modo con cui la chiamiamo, è un segno del fatto che ancora non cambia il modo di pensare queste gite. Noi ci vogliamo provare, ci abbiamo provato, abbiamo fatto degli esperimenti e quando abbiamo provato a spostare il punto di vista dalla parte degli studenti, ogni tanto qualcosina che cambiava l'abbiamo vista. E come avete operato in queste azioni sperimentali? Ma noi abbiamo provato a sperimentare delle sperimentazioni, no? Un esempio tra tutti, da due anni a questa parte abbiamo promosso un progetto che si chiama La scoperta del tuo paese, no? Perché uno dei temi è proprio quello che tendiamo ad andare all'estero e conosciamo poco il nostro paese. Intorno a questa sperimentazione ci abbiamo messo tutto, abbiamo chiesto ai ragazzi di essere loro a scrivere il percorso di visita, a pensarlo, a trovare una ragione storica addirittura per andare a visitare un determinato posto, a fare in modo che in quel posto i ragazzi individuassero una scuola con la quale gemellarsi per fare uno scambio, addirittura un viaggio di andata, un viaggio di ritorno. In quel caso i ragazzi hanno scritto il progetto, l'hanno scritto insieme agli insegnanti, addirittura hanno coinvolto i comuni, hanno coinvolto gli enti locali. Quelle sono state delle visite magnifiche intorno alle quali si è consumata un coinvolgimento totale della comunità, di tutta l'opinione pubblica. Quindi l'alternativa c'è comunque? Esiste, sicuramente esiste un'alternativa. Il mondo è complesso perché io ho sentito parte della trasmissione, avete snocciolato bene tutte le questioni che girano intorno al mondo delle visite. Però si può provare a cambiarla, probabilmente questo è il ruolo del Ministero dell'Istruzione e in questo, benché non si possa costringere, chiaramente lei lo sa benissimo, perché i problemi della scuola e le questioni della scuola le conosce, non possiamo sicuramente costringere a cambiare da un momento all'altro il modo con cui si organizzano queste visite. Ma per diffondere questo tipo, diciamo, che questa sperimentazione possa diventare qualcosa di strutturato e un modello che le scuole... Cosa bisognerebbe fare? In cosa vi possiamo aiutare noi, se potessimo? Noi sicuramente possiamo fare in modo che queste piccole sperimentazioni, che sono delle piccole perle di eccellenza, in realtà diventino culturalmente accettate e accettabili da tutti. Insomma, da prima gli insegnanti si trovano molto più motivati a portare i ragazzi in una visita che li vede coinvolti in un percorso didattico così ben strutturato, e i ragazzi stessi è chiaro che piuttosto che trovarsi a ciondolare in un paese senza molti interessi, dovendosi preparare ad una visita, ad incontrare i propri compagni di un altro paese, sicuramente quantomeno sarà saranno vari modi per vari deterrenti per mi può dare lei, Giuseppe Piero, cose. Un elemento di partenza per capire se come radio cosa servono due scuole in due regioni probabilmente antitetiche o distanti o che si possano integrare, che si mettano d'accordo? Come no, certo, basta volendo fare un esperimento, no? Chiediamo a due scuole di due città diverse d'Italia a trovare una ragione, per esempio storica, perché una città visiti l'altra, perché per esempio sono legate ad una a vicende comuni, adesso visto che c'è la ricorrenza della Grande Guerra potremmo provare a immaginare questo, chiediamo ai ragazzi di immaginare un percorso di visita motivandolo da questo punto di vista e chiediamo loro di scrivere il progetto di visita e vediamo che cosa io cambia. Lancio la cosa a questi microfoni 800 24 0024, melog@radio24.it. ci sono delle scuole in Italia che vogliono proporsi ad altre scuole per questo esperimento, vediamo, così la prossima trasmissione invece che farla sul prossimo ragazzo morto la farò sulle due scuole e sono messe d'accordo. Grazie ai nostri ospiti, alla prossima.